Con Dario Bonazzelli di iWonder Pictures, che lo distribuisce, presentiamo il documentario Alexander McQueen, il genio della moda, al cinema da domenica 10 marzo 2019. Dario, ben trovato. Ben trovato a te Federico, ben trovato a tutti. Ce lo descrivi? Sì, allora, Alexander McQueen, genio della moda, è il nuovo titolo facente parte delle I Wonder Stories, le uscite, diciamo, a evento che Wonder Pictures propone con i suoi documentari ogni mese, e questa è la volta di, dopo M.I.A., di un altro bad boy. M.I.A. era la cattiva ragazza della musica. Alexander McQueen è un bad boy, ma è un genio della moda. È un documentario che, come tanti, si è visto in anteprima italiana a Biografilm Festival nel 2018. Ha avuto già qualche bel passaggio in qualche festival, come il Fashion Film Festival di Milano e altri. È un documentario che ci è molto richiesto ed è molto atteso, perché parla di una figura ancora poco conosciuta al pubblico generale, ma ultra famosa, una star per gli addetti ai lavori. Alexander McQueen era uno stilista incredibile degli anni 90-2000, uno stilista che è venuto a mancare nel 2010 e ha condotto una vita totalmente e interamente dedicata alla moda e al lavoro, nonostante non avesse grandi basi. Diciamo, il documentario è ovviamente un excursus della sua vita, partendo dalla storia della sua famiglia. Era uno di sette fratelli, ecco, e sorelle, Alexander McQueen, nato e vissuto per la gran parte della sua vita a Londra, fino alla fermazione, dove si trasferì anche in Italia, a Milano e a Parigi. Ecco, Alexander McQueen era una di quelle persone dotate, oltre che di un enorme talento, ma di una passione incredibile, ed è questo che gli ha permesso di fare strada nei primi passi della sua vita. Non studiò, non ebbe una grande educazione e, come poi qualche altro stilista riconobbe, fu anche questo il suo punto di forza. Entrò nell'haute couture con una visione totalmente propria e libera dai canoni estetici che possono arrivare nella formazione di uno stilista quando intraprende certe scuole, certi percorsi, ecco, anche accademici. Sicuramente Alexander McQueen ha frequentato scuole, ma si è formato lavorando come sarto. Ecco, questo per ritagliare in piccola parte quella che è la figura di McQueen, che oggi è sicuramente una superstar che ha faticato non poco per potersi affermare. Alexander McQueen si circondava di molti talenti che lo accompagnavano nelle sue visioni oniriche, era uno di quei personaggi trainanti che riesce a gettare il cuore oltre l'ostacolo, però a vederlo, basta googolare, vedere qualche immagine, vedersi il trailer, l'immagine è tutt'altra. Guardandolo bene, il primo riferimento che mi è venuto, guardando proprio la figura di McQueen, è il fratello, quello un po' ciccione, un po' cattivo di Mamma ho perso l'aereo. Ecco, sembra un ragazzo molto comune, forse anche un po' sfigato, forse anche un po' cattivello, uno di quei piccoli teppisti che invece è dotato di un talento straordinario e che a prima vista magari non si riconosce. Ecco, lui aveva il fuoco dentro e riusciva a trasmettere tutte le proprie sensazioni e i propri angoli bui o oscuri. Era molto affascinato dal lato dark e gotico della vita e trasferirli nelle sfilate, che non erano semplici sfilate come comunemente si vede in televisione, si immagina, ma erano dei veri e propri spettacoli dove la prima cosa che interessava era trasmettere un'emozione. Ecco, il documentario riesce appieno a trasmettere tutto il vissuto e le crisi e le problematiche della vita di Alexander McQueen e il suo genio per come lo ha trasposto nelle sue sfilate. Dario, vedendo il documentario e anche un po' la sua opera, il suo lavoro, quali sono secondo te i tratti che contraddistinguono l'estetica stilistica di questo genio? come dicevo prima, non avendo avuto una formazione classica, si è fatto un po' da solo. Era un mago con l'ago e filo, e la sua cifra era quella di una rottura totale con il passato. È stato un rivoluzionario, dalla prima fino all'ultimissima sfilata, introducendo anche nuovi elementi, diciamo, del linguaggio della moda, introducendo digitale per primo, introducendo dei macchinari meccanici sulle passerelle, trasformando le passerelle in veri e propri set. Questo fino proprio alla sua scomparsa prematura avvenuta nel 2010, dove, insomma, sicuramente anche con l'ultima sfilata, dove appunto riuscì a creare una coreografia fatta di introdurre il digitale all'interno delle sfilate e lasciare un segno proprio ben evidente. Che uscita sarà? Allora, come Lea e Wonder Stories, il documentario Alexander McQueen e il genio della moda uscirà già da domenica e solo per pochi giorni, per cui da domenica 10 marzo a mercoledì 14 sarà distribuito in circa 60 città italiane, ma con tanti cinema. Se siete per esempio a Roma, abbiamo il film in tante sale, sia al Cinema Adriano, al Barberini, al Cinema King e anche al Cinema Urcine, ecco. I film poi se lo si trova, insomma, ovunque, e non mancheranno anche appuntamenti, probabilmente successivi a questa 4 giorni di evento. Ricordiamo allora il documentario Alexander McQueen, il genio della moda, al cinema da domenica 10 marzo 2019. Un saluto e un ringraziamento a Dario Bonazzelli dei Wonder Pictures che lo distribuisce. Dario, un abbraccio, un in bocca al lupo e a presto. Un abbraccio a te e un abbraccio a tutti. A Ciao. presto.